We'll continue now with the next set of words and phrases. As usual, ascolti l'italiano, poi l'inglese, di nuovo l'italiano. And afterwards repeat. E dopo ripeta. Cominciamo. Mangiamo. We eat. Mangiamo. Che ne dice? What do you think? Che ne dice? Il ristorante. The restaurant. Il ristorante. Buonissimo. Very good. Buonissimo. Prendiamo. We take. Prendiamo. La sala da pranzo. The dining room. La sala da pranzo. All'ultimo piano. On the top floor. All'ultimo piano. And now, before the next dialogue, test yourself on the new language. After you hear the English, say the Italian equivalent in the pause, then repeat the correct answer in the second pause. Here's the first one. We eat. Mangiamo. What do you think? Che ne dice? The restaurant. Il ristorante. We take. Prendiamo. The dining room. La sala da pranzo. On the top floor. All'ultimo piano. And finally, very good. Buonissimo.